Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. Ci sono delle persone volgari e dei bevitori, per usare il linguaggio dell'osteria. Formigoni, nel momento in cui usa questo linguaggio, lascia vedere di che natura è fatta la sua anima, che delicatezza lo caratterizza e che qualità comunicativa possiede. Un vero disastro. Quarti del paese sono contro, ma perché vi dovete fissare con sta roba delle adozioni e della equiparazione col matrimonio? Togliete queste due cose, prendetevi queste unioni civili che fanno parte della vostra battaglia storica, è più che abbastanza. Non si venga a dire che se si utilizza il utero in affitto, bruttissima espressione, si strumentalizza la donna, lo si tratta come cosa, perché non capisco per quale ragione, per esempio, le prostitute, i corpi delle donne e delle prostitute sono diventate cose per i piaceri dei maschi, però ed qui non succede niente. Non succede niente. È un bene. No, non dico che è un bene, ma e cosa allora, avete fatto per la prostituzione? Se non è un bene. Io mi opporrò fino alla fine dei miei giorni al concetto di adozione gay. Almeno quando nasce il bambino ha diritto di vedere in faccia la sua mamma e il suo papà. Dai, è inutile, è vero, le borse crollano. Tocca tornare a concentrarsi sullo spread, no? Tutti esperti di spread, la differenza tra i titoli italiani e i Bund tedeschi, tutti sapete queste cose, avete un dottorato in spread, borse che crollano, banche in crisi, la Deutsche Bank in crisi, tutto un disastro. Ma c'è Sanremo, signori, c'è Sanremo, c'è Elton John col marito stasera, le polemiche. C'è l'utero in affitto, espressione brutta effettivamente, meglio usare quella del senatore Cesa. La spregevole pratica dell'utero in locazione. L'utero in locazione. Mi sa che alla fine quello che ci aveva visto lungo e che ci aveva visto giusto per centrare questo dibattito, come al solito, è il nostro grandissimo Alberto Forchielli con i suoi dubbi esistenziali. Però una cosa che non ho capito, l'utero in affitto prevede la cedolare secca? Chissà, prevede la cedolare secca l'utero in affitto? Non lo sappiamo, lasciamo questo dubbio, ma in realtà il tema è molto importante. È la settimana decisiva, sì, pare che sia la settimana decisiva sulle unioni civili, ma chi lo sa, non lo sappiamo ancora, forse, ma c'è Sanremo, signori, c'è Sanremo, sono le 6:32 minuti, oggi inizia Sanremo e questa è la notizia del giorno e quindi possiamo aprire il Parlamento con grande gioia e grande soddisfazione. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più e convocare la più grande esperta del Festival di Sanremo, la più grande esperta di calcio nel mondo e nel globo terracqueo, la nostra Veronica Gentile. Buongiorno. Come stai, Veronica? Tutto a posto? Bene, caro, sono così contenta che inizi Sanremo che la giornata mi sorride. Eh? Ma non fare così. Che, no, che io davvero sono molto felice che inizi Sanremo e mi sento già meglio. Sento che tutti i problemi adesso passeranno in secondo piano. Vedrai che tutto sarà risolto. Magari si inventeranno un altro spottino per le famiglie numerose, la famiglia tradizionale come vero. L'anno scorso. Ti ricordi? Mi ricordo che c'era quello con la famiglia di 35 Anania. Figli, sì. I neocatecumenali con 11 figli, che meraviglia. Ah, e da adesso, dalla famiglia 35 figli, adesso passiamo alla famiglia depravata, Elton John. Beh, vabbè, ma quest'anno per compensazione hanno detto facciamo venire Elton. Non so se l'hanno fatto venire apposta contro Adinolfi, eh. Questo anche è una voce che gira, che la Rai si sia mossa attorno ad Adinolfi. Ad Adinolfi, sì, sì, sì. Ah, c'è che muoversi attorno ad Adinolfi. Vabbè, no. Marione, ti mandiamo un grosso abbraccio. Sei subito non politically correct e vieni immediatamente bannato, eh. Mannaggia, no. Allora, Veronica Gentili, eccoci qui. Insieme a te, non ci sto più. No, insieme a te, voglio salutare Chicco Testa. Buongiorno, Chicco. Buongiorno. Ben svegliato. Come... Grazie. Abbiamo sbrandato Chicco Testa. Si sente che non sono sveglio da molto, eh? Chicco, inizia Sanremo, tutto finisce, tutto si sospende, le borse che crollano, gli spread che salgono. Le borse che crollano sono un bel problema. Sono... Ma c'è Sanremo? Ma non vuoi vuoi subito rovinare questo clima festaiolo? Ah, giusto, c'è Sanremo. C'è Sanremo. Devo Milan, ti sei infilato d'ascolto. Con violenza nei sogni di Chicco, che sta palesemente ancora dormendo. No. Allora, vabbè. Un po' è vero. Allora. È un sonno vigile. Una violenza stamattina. È un sonno vigile. Le violenze di 24 mattino. Sì, esatto. Siamo così. Sì, ci intrufoliamo nei letti dei nostri ospiti. Però devo dire questa cosa, che ci sono alcune notizie che mi hanno incuriosito. Per esempio, oh, sapete cosa fa? Ve lo ricordate il sindaco di Quarto? Rosa Capuozzo, come si chiama? Ah, c'è una grande novità. Ah, non la sapete. Oggi molto probabilmente ritirerà le dimissioni. Capito. Ma è diventata il must dell'anno. Ma infatti, l'ultima volta non è andata benissimo a Ignazio Marino, quando poi ha ritirato. No, anche se stamattina lo vedo carico, anche Ignazio Marino, leggo interviste di lui che dice rivediamo tutto a sinistra. Esatto. Ignazio Marino. Ecco, sottoponiamo subito a Chicco Testa questa considerazione. Ignazio Marino è tornato. Oggi fa un'intervista al Fatto Quotidiano, Veronica Gentili è contenta, insomma, visto che scrive per il Fatto, e Ignazio Marino dice questo. Vabbè, dice che si ricandida, insomma, non farà le primarie, ma dice su Milano, noto solo che a Milano ci saranno a competere un ex manager della giunta di centrodestra, cioè Sala, e probabilmente Stefano Parisi, cioè un altro manager di una giunta di centrodestra. Un epilogo molto renziano, così dice Ignazio Marino. Ti piace questa idea di due manager... Non proprio di sinistra uno, Guarda, noto che Milano è una città civile, ben governata, pulita, dove con ottimi amministratori e continuano a esserci degli ottimi amministratori. Mm. No? Credo che alla gente, che uno sia un manager di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, quanto sta nella scala cromatica della politica italiana, interessi molto poco. Sì. Purtroppo, ahimè, la differenza tra la qualità dell'amministrazione milanese e quella romana è abissale, e questo è il problema. Allora, credo, cioè, ti do ragione da cittadino. No. Cosa? Perché ride Veronica? No, rido perché sei già pronta a dire cosa dirò io, già lo so. No, vabbè, ma Veronica Gentili dirà ovviamente il contrario di Chicco Testa, questo lo sappiamo. Io sono d'accordo sul fatto che una città debba essere bene amministrata, poi non mi interessa da chi. Sono un po' dubbioso sul pulita Milano, questo te lo dico, Chicco. Vabbè, ma insomma... Perché hai degli standard molto alti. Diciamo. Sì, tu dici, voi abituati a Roma siete abituati a cose peggiori. Tu la parametri a Roma. A Milano, almeno in centro di Milano, perlomeno topi non ne ho mai visti. Sì, effettivamente topi no, d'appartamento ma ci sono. Milano, insomma, sei uno dei pochi che si lamenta, sulla pulizia. No, in generale in questo momento da un punto di vista amministrativo chi dice che sia per merito di Pisapia? No, sulla polizia ho detto. Ho detto sulla polizia. La polizia perché tu c'hai la fissa dei mozziconi, adesso non riapriamo questo incresciosissimo capitolo. Ma non solo i mozziconi, dai, non parliamo dei proprietari dei cani, non dico cosa farei ai proprietari, non ai cani ma ai proprietari, non lo dico. Complessivamente il bilancio di come sia stata amministrata la città e come vadano le cose non sia così male. Insomma, stai sempre parlando con gente che sta a Roma, cioè infatti un po' di rispetto. Infatti. Però c'è questa è anche una città molto più facile da amministrare, Milano, è una città ricca, è una città densa. No, Roma ha dei confini giganteschi. Sapete che Roma è il più grosso comune agricolo d'Italia. Agricolo, La quantità di terreno agricolo che c'è a Roma è la più alta d'Italia comparata agli altri comuni. Quindi è una città molto difficile da amministrare, molto complicata. Infatti tutti i paragoni in realtà sono abbastanza inverosimili, anche quando si dice no, si mette d'accordo. Non si può fare, è proprio una città talmente diversa in tutto, entropica costituzionalmente, reduce da un momento storico pressoché impossibile. C'è chi si candida a fare il sindaco di Roma, in realtà è un eroe a prescindere, comunque vada. È un eroe oppure paga. No, vabbè, questa dovevo dirlo sulla questione del Movimento 5 Stelle, perché guardate che si entra proprio nella questione di Roma. Ah, questa è formidabile, ieri me la sono studiata. Te la sei studiata. Sì, guarda, caro Chicco. Mi sono letto tutto il Tu sei stupefatto, ma guarda che non solo ti dirò che non è una novità per il Movimento 5 Stelle, ma oggi tra l'altro troverai interviste di Di Maio sul Corriere, la Lombardi sul Fatto Quotidiano. Guarda che difendo una spada tratta, dicono è assolutamente necessario questo. La cosa magnifica è questa, no? Soprattutto c'è un passaggio che dice che se uno fa una serie di cattiverie no, può essere espulso. Chi decreta l'espulsione? Grillo a Casaleggio. Aspetta, gli iscritti al 5 Stelle attraverso consultazione online, oppure Grillo e Casaleggio. Quindi la mia conclusione è questa, che alla fine vuoi fare il consigliere comunale a Roma, a un certo punto esprimi un'opinione o dici delle cose che non piacciono, Grillo e Casaleggio ti espellono e in base a quello che tu hai sottoscritto cacci 150.000 euro. Manca solo una cosa: non c'è la richiesta di una fiduzione a prima vista, sono stati delicati. Veronica, tu che dici? Perché Chicco Testa è sempre molto critico, ma effettivamente fa un po'. La cosa grave è che questa volta lo siamo tutti, nel senso tutti intendo, non tutti, parlo per me, però io che non sono a priori, non ho posizione sul Movimento 5 Stelle, penso che molte volte abbiamo fatto bene, siano state molto utili all'opposizione, siamo reduci di una o due giorni nefasta, nel senso che il dietro front sulle unioni civili mi ha veramente molto molto deluso. Sì, è che adesso lì c'è stato un dietro front, nel senso che Grillo dice la libertà di coscienza sarà solo sulle stepchild adoption. C'è un particolare sostanziale che in Parlamento tu voti tutti gli articoli e poi voti la legge, quindi sai, nel momento in cui su quell'articolo c'è libertà di coscienza. Ma se poi quell'articolo passa e tu devi votare la legge, cosa fai? Voti no a tutta la legge perché è passato l'articolo sulle stepchild, cioè anche questa è un po' una contraddizione in termini. Detto questo, mi sembra una mossa molto non corretta, ma poi più che non corretta mi sembra che denoti sempre di più questa caratteristica, questa connotazione. E invece questa cosa dei 150.000 euro? Ma senti la Lombardi, che così la commentiamo, Roberta Lombardi. Introdurre una clausola di un indennizzo economico nel caso in cui l'immagine del movimento tragga un documento da una posizione che non rispetti gli impegni che sono stati presi in campagna elettorale. Hai capito? Documento l'immagine. Certo. Tra l'altro, scusate il mio entusiasmo da neofita, no? Perché non è che mi ero studiato le cose molto bene. Tra l'altro, come voi sapete, ci sono due statuti del 5 Stelle. Uno è il cosiddetto non statuto, no? In cui c'è scritto poco o niente, poi invece c'è lo statuto dell'associazione proprietaria del marchio, che è di esclusiva proprietà di Grillo. No? In questo statuto, fra l'altro, c'è scritto che gli eletti del 5 Stelle, in base ai principi costituzionali, agiscono senza limiti di mandato, no? Come è per i parlamentari, eccetera. No? Quindi questa affermazione importante è poi fondamentalmente contraddetta dal fatto che invece... ma qui l'idea è se tu crei nocumento, cioè danneggi l'immagine del movimento, Veronica, sì, ma chi lo decide? Cioè se tu nomini un assessore o fai un qualcosa che ne so contro le politiche, nel senso le politiche, la piattaforma del programma, Secondo me c'è anche un problema di espressione in quello che fa il Movimento 5 Stelle nel modo in cui si racconta, perché come principio il fatto che tutta una serie di trasformismi politici, coscienze che non ci sono all'interno dei passaggi di gruppo in gruppo, il Movimento 5 Stelle è scottato, cioè abbiamo visto cose paradossali come la Gambaro che fuoriuscì ai tempi e che è approdata da Verdini, cioè cose che fanno accapponare la pelle a chiunque, però mentre vedi queste cose qui, quindi loro si esprimono in questo modo che è un modo abbastanza estremo e categorico. Comunque oggi lo difendono totalmente, cioè non fanno mezzo passo indietro, non uno, mezzo passo indietro. Ma è molto difficile, anche perché già si trovano sull'altro fronte molti di loro a dover dire no, comunque io voterò sì alle unioni civili, e su questo in parte a dissentire, perché questa è una mossa che viene più dall'alto, secondo me, cioè su questo gli strateghi, Casaleggio, hanno detto non si può fare posti ideologici, quindi né di destra né di sinistra, non possiamo permetterci di perdere una fascia così ampia di voti, di gente che comunque si indisporrà. E un po' c'è anche il discorso di non voler essere la stampella di Renzi per l'ennesima volta, perché chiaramente se non ci sono i voti del nuovo centrodestra sarebbero necessari i voti dei 5 Stelle, quindi leverebbero le castagne dal fuoco a Renzi. Quindi tutta una serie di cose fanno sì che adesso loro debbano in qualche modo tamponare e un po' staccarsi dalla volontà di Renzi. Sì, ma ragazzi, però c'è Sanremo. Che poi la butta in cacciara. No, ma non è che la butto in cacciara. Ma poi perché Carlo Conti ha chiamato Garco e non ha chiamato te? Io da ieri smettila, cioè sei veramente una cialtrona se dici questo. Non è vero che tu pensi questo, lo dici per prendermi in giro, ma insomma no, è che dovevo andare. Penso che sei bello come Garco, perché dici così? È che devo andare al traffico, questa è la verità. Allora mi scrive un ascoltatore: sentire Veronica al mattino è meglio del gol del Milan all'ultimo minuto di Bertolacci. Ah no, traversa, vabbè, ma tanto non la capisce Veronica, si è parlato di calcio. Veronica, bello. Sai quanto ha fatto il Milan domenica? Per me di Milan ce n'è uno solo. Vabbè. Prendi e porta a casa. E questa andiamo direttamente al traffico. Chico Testa, scusaci, basta, non mi interessa nient'altro. Avanti, traffico. La colazione dell'italiano: cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Ma vi rendete conto? 20.000 euro al mese e non sanno dire stepchild adoption, ma vi rendete conto? Mamma mia, che vergogna. Alino, porca sidella, che mi fece un po' nervoso. Rizzi, fai bravo, va! Fra il bullo dicendo che praticamente sono gli unici che chiamano la gente a votare alle primarie. Eh sì, ma tanto le primarie sono tutti di loro, non è che c'è qualcun altro. Per cui vincono sempre loro le primarie, che sia zuppa o pan bagnato. La sentono poca, la signorina Veronica, mamma, è come sensuale quando parla con la bella guagliola. Ti puoi immaginare come è sensuale quando sta zitta, mamma mia. Beata chi sa sposo, beata chi in carrozza, mamma mia. Ciao, sei una mozzarella in carrozza, Veronica. Sì, ciao Milan, sul Pistoiese. Quando senti il fiorentino, digli dove la butta la Veronica Gentili e la vado a raccattare io. E sa, a Firenze c'è la carne buona, ma mi sa che lui ci capisce una sega nulla. Vabbè, insomma, cioè adesso è partita la disfida tra il fiorentino e il Pistoiese. Sulla Veronica uno. Gentili, no. Ho nominato il mio avvocato. No, Chicco, salvaci tu. La disfida tra perché il fiorentino gli sta un po' sui coglioni, la Veronica. Il fiorentino che proprio gli capito, nessun né giù, non riesce proprio a digerirmi. Esatto, e allora il Pistoiese adesso è partito in difesa. Cosa gli ha fatto la Veronica? Ma niente, ma sarà solo un po'. un po' invidioso. Non capiamo se è uno sketch, sta aspettando che arriviamo lì in delegazione, capito, per affrontarlo io e Milan, oppure in realtà se è un odio vero. Non vabbè, comunque sappi Fiorentino che adesso c'è il Pistoiese che la difende, quindi parta questa sfida ufficiale. Diamo il via. Allora, tra l'altro Veronica Gentili ci ha mandato il selfie? Sì, ce l'hai mandato Veronica? Non ti dicono nulla i tuoi amici della regia? Lorenzo ride però, quindi vuol dire che è arrivato. Allora, perché Chicco, ci sarebbe questa moda che abbiamo introdotto da un po', cioè che gli ospiti delle 6:30 se ci mandano un selfie, una foto, un particolare di Chicco casa. Chicco, l'hai svegliato, sì, ancora non sei esatto. Tirato su dal letto, sente questa frase, adesso attacca. Sarebbe bellissimo, eccolo qua. Un selfie lasciamo perdere, se voi... La prossima volta me lo dite e mi preparo. Giustamente, chi contesta? No, però puoi mandarci, che ne so, una foto di un pomello del mobile di casa, ecco. Sì, questi particolari da moderna regia. Sì, esatto, per farci sentire che siamo un po' a casa tua, ti abbiamo svegliato, almeno insomma, proprio facciamo le cose fino in fondo. Vabbè, Chicco Testa, tu che sai tutto di queste cose, ci puoi spiegare alle 6:49 minuti perché le borse crollano? Cioè, ci dobbiamo preoccupare, c'è qualcosa? Pendiamo dalle tue labbra, eh? Beh, indubbiamente la situazione è preoccupante. Il motivo fondamentale è che si teme che l'economia mondiale entri in una nuova fase di recessione molto forte. Mm. Una recessione, peraltro, di cui è difficile capire le ragioni e la struttura. Il mondo è inondato di denaro, adesso detto così sembra, diciamo, qualcuno dirà, ma io non l'ho visto esatto. Denaro, c'è ecco. Gente che si aggira adesso, esatto. Va in cerca, c'è dove? Però è la verità, perché sia la Banca Europea che la Banca Americana hanno messo sul mercato miliardi e miliardi, ma non riparte l'inflazione, che dovrebbe essere invece collegata, e c'è una scarsissima produttività e crescita soprattutto in Europa. L'America sta rallentando, la Cina sta rallentando, sì. I cosiddetti BRIC, cioè quindi anche i paesi sudamericani tipo il Brasile, stanno rallentando, e c'è un grandissimo timore. Cioè che ci sia una nuova recessione, insomma. Che ci sia una recessione o il prezzo del petrolio che è calato in maniera enorme, o una lunghissima stagnazione, no? Il problema è poi se questa crisi si propaga dalla borsa a un'altra volta ai bilanci statali. Ieri avete visto che lo spread, sì, il famoso spread di cui abbiamo parlato mesi all'epoca del governo Monti, è tornato ad allargarsi e quindi aumenta il costo del debito italiano. C'è la paura, mi verrebbe da dire, ma non lo farò, ma inizia Sanremo, ma non lo farò. No, però qui ci stava bene, perché dai, un po' Sanremo è quella cosa che dice vabbè, succede un disastro, però che dobbiamo fare? Ma io sono terrorizzata per gli ascoltatori che si fanno una settimana con te durante Sanremo. No, ma a me basta che votino Enrico Ruggeri, che è il nostro Enrico Ruggeri. Facciamo un po' di lobbying, si inizia questa sera? C'è Elton John. Iniziamo con un bello spot per gli uteri in affitto, perché cioè non è ancora iniziato il festival, cioè non si è neanche visto Elton John, e per esempio Camillo Langone oggi fa un'intervista sul giornale a Costanza Miriano, che è una di quelle che ha organizzato il Family Day, e gli chiede: ma perché non vedi stasera il festival della propaganda omosessualista? Questa è la prima domanda. Ecco, per dire. Omosessualista vale tutto, sì, quanto. Esatto. No? E non è ancora iniziato, capite? Non è ancora iniziato il Festival di Sanremo. Pensate se quando inizia, insomma, stasera. Quindi, ci sarà tutto il nuovo centrodestra che non si terrà nelle braghe. Del resto, dopo la figura meschina che ha fatto Formigoni il giorno scorso, due giorni fa, Ma io non so, Formigoni, come faccio a uscire ancora di casa. Ma comunque, perché su Twitter ha detto che le checche isteriche stanno avendo delle crisi perché non passa. Ma io dico, ma purtroppo il problema è che la gente utilizza Twitter pensando che stia parlando con la vicina di casa, no? Quindi sì, è un po' così. È così. Soprattutto quando se ne inizia ad avere un utilizzo compulsivo, Gasparri docet, e non pensano che questa cosa la leggerà il mondo e la riprenderà. Quindi se ti fai prendere la mano e fondamentalmente ci sveli l'arcano mistero del perché il nuovo centrodestra non vuole votare questa legge, non per la sfumatura, capito, la complessità interiore delle stepchild adoption qualora dovessero incrementare la pratica dell'utero in affitto, ma perché fondamentalmente sti froci non li sopportiamo. Questa è la sintesi. Formigoni ha calato la maschera a Carnevale, invece di mettersela lui l'ha buttata giù. No, in che senso? Che fondamentalmente è un'intolleranza di fondo da un tweet come questo trapela in maniera abbastanza evidente. E non è ancora iniziato Sanremo, caro Chicco, tu pensa, niente, non è ancora iniziato. Dici perché ho detto te al posto di Garco. Pensa, ma non vogliamo stasera fare una settimana alternata, mettiamo Garco a 24 mattino e tu va al festival. Beh, si potrebbe fare. Secondo voi nel contratto di Elton John hanno messo che cosa può dire, che cosa non può dire, ma no, sai che lui ha anche due figli. Secondo me si presenterà anche con delle foto, non lo so, ma perché c'è anche questo giallo, magari si presenta coi figli. Pensa se si presenta coi figli sul palco, che pensa alla reazione di Gasparri. Chicco, cosa potrà fare Gasparri quando cominciare a ululare? Non lo so. Anche si dovrà un po' tenere, perché dopo l'uscita sull'IKEA in cui ha detto che rimandava i fazzoletti sporchi al direttore, ragazzi, qui ormai c'è un'incontinenza verbale che è abbastanza preoccupante. Vabbè, ma finirà, passerà anche questa. Niente, io vi devo salutare, mi devo fermare. Caro Chicco Testa, se vuoi mandarci allora un particolare di casa, fai tu. Se non vuoi. Quello perché lo fate vedere alla radio? No, cioè, sarebbe straordinario. Lo mettiamo su Twitter. Cioè, no, effettivamente è colpa mia, non ho detto dove, come. Dovresti mandare un tweet con una foto. Se ti va, non è che ma ti obblighi. Indirizzato a voi. Sì, metti dentro anche Alino Milan, anche il mio account, poi dopo lo conosco il tuo account. No, ecco, non volevo spiegarti l'amicizio. Va bene, dai, vi saluto. Grazie, ciao Chicco Testa, ciao Veronica, alla prossima. No alla stepchild adoption, che rischia adoption, scusate. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, siamo appunto pronti a leggere i giornali ricchi di notizie oggi, tanti begli spunti che vi voglio riproporre. E allora dai, andiamo subito a sfogliarli questi quotidiani. In questo martedì 9 febbraio la maggior parte dei quotidiani apre sulla giornata nera delle borse. Lunedì nero per le borse, Milano meno il 4,7%, lo spread a 143, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Mentre per il Corriere della Sera, spread in tensione, borse giù. Repubblica, borse, la grande paura, l'incubo recessione affossa l'Europa e Wall Street. Così il Messaggero, tonfo in borsa, risale lo spread. La Stampa invece, l'Europa studia un nuovo trattato, incontro a Roma tra i 6 stati fondatori, bufera sulle borse, piazza affari giù del 4,7%. Come vedete la maggior parte dei titoli, anche borse e spread da paura, è l'apertura del giorno.